Ich kann ein bisschen frech, ja. Bacchisio, tensione, Bacchisio, Bacchisio, cambio, tensione, sole, sole, cambio, tensione, gigante, gigante, cambio, non arriva ancora, sono a riposo, o è al mare, sole, Bacchisio magari sta salendo la campagna, ma sole va verso il mare, penso, evidentemente sta salendo a farà, sole c'è stato, si sta fatto lo carrello, perché si sta mettendo a posto le luci del carrello, grazie, l'ha detto ieri, evidentemente non ha finito ed è indaffarato, Bacchisio, avrà ciappato in soffi. Bacchisio ancora in campagna, volato. Io oggi ero a riposo e mi avevano toccato la macchina, era in zona cancello, è venuto un amico carrozziere, mi ha fatto un prezzo buono e ho preso il materiale, tra ieri e oggi l'abbiamo terminata. L'ho terminata, almeno ho fatto il fatto fuori dal scatto, me l'ha casseggiata, dato il fondo, dal parente, tutto a posto, va? Meglio così, va. Meglio così. Richiamiamo a Bacchisi allora, Bacchisi. Tensione gigante, cambio. Oh, va, va. Vabbè, domani rimango un po' nascosto, là, che c'è il riposo da qua, che lo vedo sul campallone. Già sono sempre nascosto, vai, domani, ok. D'accordo, vai, ci sentiamo, va, buon proseguimento, stavo solo in casa, ciao. Ciao, sei in casa, io non puoi già in consiglio, là, ok.